Immagino una beretta a testa, ognuno per sé, ogni perché vale ad uccidere te. Allo stato ferino e ritorno, fine del giorno, umanità alla mazza caffè, fottuto anche senza secondo. E leggi chi non sa leggere, leggi cari per pochi, da quei pochi la padroni di una sedia che gli ospita. Fa solo decisione al fine di procurare fortuna, perché gli procura i posti, ma ogni potesse è postuma. Che cosa vuoi che sia? Ti fila Juventus col cazzo, ti fila Fiat. C'è sempre la sorpresa, anche se quella che si scarta va a voto perfetto per te, solo pile e farda. Pezzi di carta buttano giù cristiani come mongoloi da Sparta. Aumenta le pensioni ad Osole, complottano a Malta. Si appalta il futuro più nero, chi sfiderà l'impero prossimo a testa che salta. Punta la luna ma il popolo vede il dito. Idoli d'oro, bilico limbico, la fede collera nel mito. Indico la calca isterica e sempre pene di carta bianca, più di una fabbrica di carta igienica. Non lascio traccia, al massimo uno skit per provare con lo skip, tanto c'è repeat. Com'è possibile la mia nazione dei fascisti? E veri colpevoli del male non si sono mai visti. Mondi è il dominio del demonio, è qua mosche in faccia per il distramonio. Mondo senza senso, il villaggio globale è un condominio perverso. Apnea, piena full immersion. Mondi è il dominio del demonio, è qua mosche in faccia per il distramonio. Mondo senza senso, il villaggio globale è un condominio perverso. Apnea, piena full immersion. È l'orrore, apocalisse ora, l'aria che si deteriora, un alien ci divora, l'interiora è una realtà più gorda, alle vida, all'acqua che sa di via cale, tranquillanti nel tuo pedigripal. Non dare credito allo zar, alla sua libertà di plastica. La vita umana è solo brode, la giustizia brucia nella soda caustica, si mastica polvere e merda che ti basti qua. Drastica sopravvivenza, ma che sia pure questa una tattica. Pensiamo lanci resta, non c'è moda della pratica. Passi calda tutti, lingue nella ciotola, ci hanno tolto il collare, ci tengono per la collottola, mai mollare. Ricoglioniamo intelligenza e la vita del presidente vale 20 centi quanto una pallottola. Nel mio demanio faccio castelli di uranio e grigi mi rapito ed ho frammenti dentro il cranio. Mondi è il dominio del demonio, è qua mosche in faccia per il distramonio. Mondo senza senso, il villaggio globale è un condominio perverso. Apnea, piena full immersion. Mondi è il dominio del demonio, è qua mosche in faccia per il distramonio. Mondo senza senso, il villaggio globale è un condominio perverso. Apnea, piena full immersion. Colpo ad alte sfere, colpo con sei. Le mie risposte deludono, scrivi e farisei. Uccido i vostri avatar, conservateschi. Sono sfatti in una stanza sulla prospettiva Nevsky. Salgono allucinogeni nel mio samovar. La pressione nelle vene a 400 bar. Sto dentro fino al collo in cieco, non credevi mai. Sul muro di mattoni ho visioni di David Icke. Se capuretti la sangue è freddo più di Capote. Io tiro dritto, lascio di sale la moglie di Lot. Fanculo Gog e Magog, la paranoia mi sfibra. Prima nave bevo Gog con Gibrash. Perso fra pagine un'indagine, mi lascia cazzi che non posso dargli un argine. Ma so che il loro specchio non ne riflette l'immagine. Fiero di essere maledetto, se benedetto è Ratzinger. Don't believe the forefront of the industry.